questa terra di fuoco e passione, è l'abitudine di amare. Per non sentirti più sola, per non doverti ricordare ancora che noi non siamo né prigionieri né liberi. Tutto intorno, tutto si muove senza più un'idea. Sopra un piano inclinato, soffocato dall'alta marea, poi non ricordo più niente. Perfetto per domani. Sospendo l'inversione di rotta e volo verso la luna, nel miraggio di una stella, un atterraggio di fortuna, un'esplosione cosmica che ti protegge da tutte le paure di questo viaggio che non sa di niente. C'è un biglietto per la carità, per la carità. Un tetto e un po' di calore, è una preghiera che riscaldi il cuore, è un verbo giusto che ancora non so trovare. È appeso a un filo, un contrappeso che mi fa cambiare idea, perché sono vivo, sono un verso, io sono un battito dell'universo. Sospendo l'inversione di rotta e volo verso la luna, nel miraggio di un